cultura pop, dove sono lì. Prossima stazione, stazione Forlanini. Cambiate qui, per il diverso. Taxation, stazione Forlanini. Thank you. stazione tricolore. The next station is tricolore. Siamo a tricolore, apertura ponte a sinistra. This is tricolore, doors open on the left. Attenzione, chiusura forte, non so più. Prossima stazione, San Babilo. Cambiate qui per linea e più. The next station is San Babilo. Change here for Metro Line 1. Siamo a San Babilo, apertura forte a sinistra. This is San Babilo, doors open on the left. Thank you.